Sono contento perché la mamma malati soli da dare al cine con quelli che gli darà papà. Anche Milena potrò portare. Sono contento perché stasera mi metterò le mie scarpe nuove. Quando Milena me le vedrà sicuramente sorriderà. 300 da mamma, 200 dal babbo e fanno 500. Sono 400 per l'ingresso, che gelato le posso offrire. Sono contento perché stasera me ando al cinema con Milena. Le scarpe nuove lei con me, sarò felice più di un re. Sono contento perché la mamma ma ti soldi da andare al cinema con quelli che darà papà. Anche Milena potrò portare. Sono contento perché stasera mi metterò le mie scarpe nuove. Quando Milena me le vedrà sicuramente sorriderà. 300 da mamma, 200 dal babbo e fanno 500. Sono 400 per l'ingresso, anche gelato le posso offrire. Sono contento perché stasera me ne andrò al cinema con Milena. Le scarpe nuove lei con me, sarò felice più di un re. Sarò felice più di un re.